Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qua. Eccoci qua, questo 24 di febbraio. Sì. San Sergio. San Sergio. Poi Sant'Evezio, Sant'Etelberto, San Modesto, Santa Berta. Ed è il 13° anniversario della morte dell'eterna raffigurazione dell'italiano medio, secondo me Alberto Sordi. Sono già 13 anni. 13 anni che è morto, mamma mia. Stanno ancora litigando sul pensa sul, un po', sul, infatti, sul giornale. Mi è venuto in mente per quello. Ho detto, ma quando è morto? Molto oggi. 13 anni. Ma 13 anni sono tantissimi. Come passa il tempo? Facciamo queste considerazioni molto vecchie. No, così. Ma sono vecchie. No, ma il tempo. Mi è sempre colpito. Quando ero piccolo, io diffidavo Alberto Sordi perché dicevo è troppo l'Italia come non mi piace. Adesso sono passati tanti anni, continuo a pensare che abbia azzeccato esattamente il racconto dell'italiano, con tutti i suoi difetti, le ipocrisie, le cose, insomma, no? è chiaro, 13 anni però mi ha dato un duro colpo. Pensa del medico della mutua eccetera e poi Paola Canegrati di oggi, se non sembrano due cose, ma no, ma lo dico sul serio, sì, c'è poco da fare, è così. Paola Canegrati, lo raccontiamo, è la presunta che ieri però ha capitolato di fronte ai magistrati, l'imprenditrice dentistica che dice, dicendo voglio raccontare 30 anni prendevo, di 30 anni così, politici, così da dice. 30 anni prendevano i soldi. Allora, siamo vicini al traguardo, chissà quale traguardo sulle unioni civili, vogliamo parlare un po' di questo perché vogliamo chiedere ma chi vince, chi perde? Ha chiesto, Parolin ha vinto, ieri ha preso anche il premier vince. Sull'attenti, il segretario di Stato, ieri gli ha dato anche le istruzioni, ora adesso evitate altri grimaldelli in aula, tra un po' ci dice gli articoli del regolamento da applicare, sua eminenza il segretario di Stato. Cardinal di uno stato straniero, quindi collega tuo Cardinal Giannino, no, il collega no, mio, quello è il cardinale sul serio, ma quello è il vero vincitore, dice che è il vero vincitore, insomma, mi pare che come si chiama lì mister 1% Alfano, ministro dell'interno, brinda ogni bar che trova. Sì, tra l'altro ieri Alfano mi ha molto colpito perché ha detto non è ancora, no, c'è certo. Qualcosa da limare. Pronto, in effetti, Parolin ci dà la linea, pronto. In effetti oggi sarà un'altra giornata di limature perché questo maxi emendamento ancora non c'è. Limature, martellate, discussioni, non so. Verrà presentato, pare, domani all'ultimo momento. Tra l'altro oggi il Fatto Quotidiano titola perché? A caratteri cubitali. Una lunga domanda, sì. E cioè a dire, ma perché non si può votare una legge? C'è una legge di solito, come si vota? Emendamento per emendamento, ne sono rimasti 500. Ma il problema è che il segretario del PD teme i suoi del PD, per questo hanno montato tutta sta storia, i traditori sono allora gli altri. Qui bisogna capire, e facciamo la domanda ai nostri ascoltatori all'800240024. Allora, Renzi, che sa di poter andare sotto su alcuni emendamenti, è pragmaticamente furbo a dire metto un max emendamento fiducia così mi porta a casa quel che riesco a portare a casa, senza le adozioni ma una parte della legge? Oppure è cagasotto, come dice Fico del 5 Stelle, che dice è un governo cagasotto, no? Senti qui. Se avesse coraggio, se il PD avesse coraggio e fosse un po' meno cagasotto, dovrebbe venire in aula cagasotto e votare i 500 emendamenti insieme a noi. Cioè dire in due giorni li discutiamo. Mettiti il pannolone. Chi ha ragione? Questo, cioè chi ha ragione? Come la vedete voi? In politica tutti hanno ragione. Però. Sì, certo, se la danno però, come si dice. Però il problema è che, al vostro giudizio, chi ha tradito? Questo è il punto. Più PD, più 5 Stelle. Più Verdini. Verdini è inossidabile anche questa volta. Verdini che voterà la fiducia domani. Tutti lo sfottono, ma diventa sempre più insostituibile. Il ragazzi, governo Renzi, senza Verdini e i suoi 19 voti al Senato, non esiste. Dura mezza così, insorgerebbero tutti i fiorenziani. Però ma è Oscar, così. Non credi che questo sia una, siccome è una legge cosiddetta etica su temi etici e sensibili, non tutte queste leggi sono c'è la maggioranza di governo da una parte, e il caso Alfano lo dimostra, che si e c'è una maggioranza con una fiducia di governo. Renzi si è autosmentito anche in questo, ha assistito dicendo fate voi, ha però scoperto ha dopo mesi che guarda che il PD non ha vinto l'elezione, la maggioranza in Senato, ma guarda, mi era sempre sembrato che la pensasse al contrario. e poi l'ha trasformata in una fiducia di governo, quindi una bella autoribaltamento. C'è anche chi fa notare che su temi appunto così sensibili forse una fiducia non è il massimo della vita, perché su questi temi in cui bisogna dibattere, discutere, il PD era partito con tutt'altre promesse. Eh beh, ma è chiaro, ma lo stesso Renzi appunto dice non abbiamo vinto le elezioni, non incameriamo quello che volevamo incamerare, ma qualcosa intanto portiamo a casa. Tant'è meglio che vedi qualcosa che accusano che in molti la Cirinnà di aver tradito a sua volta, dice ma come ti sei battuta e adesso ti va bene sia lo stralcio che la fiducia. Poi c'è questa meravigliosa storia di Paolo Endel di Quico Qua, che non so se hai letto. Paolo Endel Quico Qua non me la sono persa. No, beh, la cosa meravigliosa, secondo me adesso ogni tanto bisogna alleggerire temi molto importanti, delicati, no? Come questo. Allora, c'è la Stepchild di Quico Qua di Paolo Endel che la racconta, ed è una storia inquietante che io ignoravo perché io non sono molto esperto di storia dei fumetti. E in realtà Quico Qua, secondo la storia, verrebbero da un'inquietante vicenda di lesbiche. Perché? Ma perché? No, è così, perché Quico Qua, Paperino, gli sono stati affidati da una cugina che si chiama Della Duck, che gli manda questi tre nipotini, perché il loro babbo all'inizio sarebbe in ospedale per un petardo. Si scopre poi che Della Duck in realtà ha una storia lesbica con Thelma e che ha eliminato il marito. Sì. E quindi rimangono questi tre, quindi è un caso di Stepchild per il povero Paperino. Adoption. Io non ne sapevo nulla di questa storia qua, meraviglioso. Endel mi ha aperto una vera cosa, scusa, mi sono perso da piccolo, mamma non me li faceva leggere. Perché c'era la Stepchild. C'erano degli aspetti che non questo, le tornavano. C'è questo giallo dell'SMS, oggi l'Unità titola bugiardi contro il Movimento 5 Stelle, cioè non hanno votato il canguro, ma spunta un SMS che qualcuno del Movimento 5 Stelle avrebbe spedito alla Cirinnà il giorno prima, dicendo stai tranquilla, abbiamo deciso, votiamo il canguro, ma non dirlo a nessuno, tienitelo per te perché formalizziamo il tutto domani. E il domani è stato il giorno in cui poi c'è stato il dietro front. Ma quando anche ci fosse un SMS, se non ci sono, la politica tradisce gli atti pubblici, figurati gli SMS, dai, su. Però questo a dire che insomma il clima è questo, ci si appresta. Il clima è che i 5 Stelle, ognuno può sindacare sulla coerenza che hanno avuto, però sono riusciti a rivelare agli occhi di tutti una difficoltà molto insita nel PD. Io capisco la rabbia di Renzi su questo, che tutti recitano la parte traditori, dandosi... però il problema è che, come si è visto, ognuno aveva problemi a casa sua, ce l'avevano i 5 Stelle, sì, ce l'aveva il PD, questo sì, è sì, fatto. E cioè Parolin è ancora il grande burattinaio delle coscienze. Parolin è così, Parolin. E lo so che dai nervi, no, però la potenza non... straniera vaticana esercita ancora il suo diritto di ingerenza. Sentiamo che ne pensa Enzo da Roma, ci chiama. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Ma che dice lei? Io dico che Renzi è un pragmatico, perché abbiamo un Parlamento che fa ridere, è molto frantumato, i nostri politici fanno la stessa cosa, tenta di portare a casa una riforma e poi verrà modificata, perché tanto non rimane quella. Quindi lei dice fa bene da pragmatico a portare a casa qualcosa. Ma sì, perché sennò non porta a casa nulla. Quindi è la teoria del bicchiere mezzo pieno, no? Enzo la vede così, grazie. Ma grazie, se avessimo un Parlamento come avviene all'estero, con una maggioranza reale... La maggioranza c'è, il problema è che su questo tema, come sa, Alfano, che fa parte della maggioranza, è che essendo cattolico, eccetera, su questo tema non lo segue. Il problema è che la maggioranza è sempre una coalizione, mentre... all'estero si vince un partito. Il problema è come si è accorto Renzi, però, non ha vinto le elezioni. Quando io dico che ci vuole rinominare secco alla Britannica, mi si dice che ci vuole rappresentanza, i mille partiti che sono fascista. Bisogna mettersi d'accordo qua, però. Ma è andato del Gandhi, Gesù bambino e fascista. Ma perché hanno tutti le idee mettono insieme un po' di cose. Enzo la vede così. Però Oscar, scusa, tanto, questo è un tema, ripeto, non è un tema, cioè non è che si vota sulla finanziaria dove ci deve essere una maggioranza. Di governo. Hai assolutamente ragione. È un tema che spacca anche i partiti, le coscienze, le persone. Io stesso magari 3 anni fa pensavo una cosa, adesso ci ho riflettuto su questo tema, ne posso pensare un'altra. Giustissimo. Però io dico solo che riuscire dopo mesi di blocco della politica, anche andando al parlamentare, ad approvare una legge che probabilmente finirà per essere uno strumento ad ampia discrezionalità dei magistrati, perché questo è vero, la Stepchild ci sarà per i magistrati. Allora, questo è un insuccesso plateale per qualunque punto di vista politico, perché dopo tutto sto balbettio finisce che i magistrati faranno quello che vorranno. Ma come ci sono già state sentenze a riguardo, quindi a riguardo, quindi anche prima della legge i magistrati decidevano con le adozioni. Ma per esempio i magistrati creeranno il problema, come date la reversibilità all'unione gay, non la date alle coppie di fatto eterosessuali e così via. Ma è ovvio. In più, a furia di occuparsi solo della prima parte della legge e non della seconda, molti fanno notare: ma voi siete sicuri che formalizzare le coppie di fatto eterosessuali, cioè per esempio non le convivenze di anziani che si danno una mano, i fidanzamenti, dice tutta la gente che si manda a quel paese litigando con i fidanzamenti, cioè la stragrande maggioranza dei casi, finirà di fronte al giudice. Molti di quelli rischiano di finire di fronte al giudice per via di queste leggi. Nessuno ci ha pensato, non una sola riga di riflessione. È giusto, sbagliato, per esempio. Beh, per ma se tu vuoi un'altra. Formalizzare una coppia di fatto, voglio dire, perché la vuoi formalizzare? Se rimani fidanzato e basta. Stanno ancora vedendo quali istituti rispetto alle coppie dei non dare alla coppia di fatto eterosessuale, perché se non Parolin si incazza perché è troppo matrimonio e così via. Cioè, capisci che è una cosa. Vabbè, ci chiama Giuliano da Padova. Buongiorno. Buongiorno, è Giuliano, è francese. Ah, Giuliano, francese. Benissimo. Comunque, io penso che da un lato è vero che i Cattodem sono quantomeno retrogradi. Dall'altro lato però il Movimento 5 Stelle ha approfittato di questa difficoltà del PD e ha giocato sulla pelle delle persone, con i diritti di persone che aspettavano che gli fossero riconosciuti. Però dicono adesso discutiamola questa legge, cioè non hanno problemi a discuterla, sì, non avrebbero certo, problemi. Non avrebbero problemi sapendo però che una parte del PD, e questo è noto a tutti, quella legge, e anche una parte del resto della maggioranza di governo, quella legge non la vota così. Alcune parti di quella legge non la vota. Quindi il problema è più del PD. Indubbiamente, forse. Beh, certo, indubbiamente il PD è in difficoltà, ma questo, cioè che il PD sia spaccato tra una parte, diciamo, favorevole e una parte sfavorevole, era cosa nota anche prima. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un legittimo gioco politico da cui oggi però pretende di chiamarsi fuori, fingendo. Posso farla riflettere solo una cosa? Il famoso ripensamento 5 Stelle, cioè Casaleggio che sondaggio alla mano, così dicono alcuni, ha detto no ragazzi, aspettate un secondo, che poi viene espresso sul sito Grillo, viene dopo della sorpresa vera. La sorpresa vera è stata l'emergere di decine e decine di parlamentari Cattodem, come ha detto lei, nel PD, con una opposizione frontale durissima, con emendamenti depositati a legge oramai molto inoltrata, che all'inizio nessuno immaginava da parte loro. Quindi nella ricostruzione temporale prima è esploso il problema dentro il PD, a quel punto i 5 Stelle hanno detto approfittiamone, come dice lei, oppure vediamo il problema della nostra base. Però guardi che lei dice è noto dall'inizio. No, noi l'abbiamo scoperto a legge inoltrata che nel PD c'era gente che proponeva emendamenti durissimi. Quindi io propongo solo questo criterio di lettura, un criterio oggettivo, poi ciascuno può pensare come vuole. Chiaro, ecco. Chiaro. Comunque Giuliano, la ringraziamo. Andrei a Federico, da Federico a Novara. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sì, grazie. Ma io penso che semplicemente il piano B sia sempre stato il piano A in realtà, anche perché è sempre stata sbandierata questa legge che mancava da 20 anni. Insomma, se un partito parte ed è sicuro di farla, la difende fino alla fine. Qui è bastato un venticello per tornare sui propri passi. Questa è una lettura interessante, nel senso che molti fanno notare che Renzi è sempre stato contrario alle adozioni. Lei dice, Federico, che in realtà è stato tutto un modo per far passare Ma io ricordo anche nella manifestazione queste minacce non troppo velate di Adino Orsi sui voti. Insomma, sono cose che poi messe in conto hanno fatto probabilmente sbriciolare un po' la sicurezza ostentata dal PD. Ha vinto Marione Adinolfi. Ma la cosa più comoda è stata poi ovviamente addossare la colpa ai nemici ormai storici delle 5 Stelle, che sono il capo espiatorio un po' di tutto, no? Quando succede qualcosa, mentre in realtà, insomma, se la volevano veramente la portavano a casa, o l'avrebbero difesa comunque. Vabbè. Così la difesa non c'è stata. Questa è anche un'altra lettura, la ringraziamo. Cioè, diciamo che come scriveva Erodoto scriveva una cosa che mi è sempre rimasta nella testa, cioè che i persiani, gli antichi persiani, quando dovevano decidere una questione, prima la esaminavano da sobri e poi dopo tornavano a esaminarla da ubriachi. Diciamo che da un certo momento in poi il PD è entrato nella fase ubriaca, sono noi scegli, come la vedo così. La vedi così. Tra l'altro, guarda, anche su WhatsApp i nostri ascoltatori sono molto attivi al 349-238-6666, arrivati proprio 2 minuti fa da WhatsApp. Renzi con Alfano è peggio di Savonarola con Benigni e Troisi. Renzi, non conti proprio niente. Legge Cirinà, legge a metà. Beh, effettivamente Cirinà, legge a metà, c'è una bella rima. Non è male. Però come dire, la gente capisce che Alfano ha vinto. Come slogan. Insomma, dai, è abbastanza Alfanuccio, abbastanza il evidente. Governo che non può stare in piedi, ricordatevelo, anche se lo dimenticano di dirvelo, senza Verdini, e che prende la linea da Alfano. Parolin. Va bene, tra l'altro noi tra poco avremo ospite Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e Fabrizio Rondolino, che tra l'altro ha raccontato ieri in TV di avere ha due figlie, una delle quali 22 anni è lesbica. E quindi sarà anche interessante capire da Rondolino come si vive in famiglia, insomma, questo momento in cui si parla di unione civile. Parolin non interviene. No, ma dai, ma adesso, ma c'è l'ossessione. Ma non ho l'ossessione, comandalo, c'è, ragazzi. C'è l'ossessione. Ci vuole un basta contest, Basta Parolin. Senti qua. Basta! Ci scassasti l'imbruglione! Basta. Anche questo da Francia o Spagna, basta che se magna. Basta. Anche questa lettura. E approfittiamone, sempre più creativi. Onore alla Barilla, che prima grande azienda italiana, che introduce per 1600 colletti bianchi lo smart working da casa. Onore alla Barilla. L'ho letto anch'io. Ci sarà nel giro di qualche tempo, insomma, la possibilità di lavorare a casa. Soprattutto, dice la Barilla, l'hanno chiesto soprattutto le donne. Sempre lì, le donne che portano avanti poi. Eh sì, perché poi c'erano la cura parentale, i figli, e così via. E va bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo. State con noi. E allora siamo qui alle 8:36 minuti, eccoci caro Oscar. Eccoci qui tornati. Dobbiamo parlare di unioni civili, ma non solo, però è il tema del politico del giorno. Unioni civili sono il tema politico del giorno, però c'è sempre poi follow up della svolta vegetariana di Berlusconi. Vegetariana. Gli americani che ascoltavano Berlusconi. Berlusconi, torna Berlusconi. Noi che mentre si scopre che ci ascoltavano diamo la base a Sigonella per il via libera. Piccola riflessione, ancora una volta, con un governo di sinistra nessuno dice niente col fatto che, dando l'ok alla base italiana, anche se è una base americana, una base siamo non nata, guerra, ma dello Stato, noi siamo in guerra senza un voto parlamentare, un passaggio parlamentare. Sempre la stessa storia con i governi italiani, pur di non rilevare che noi siamo in guerra. Punto. Siamo in guerra. Però prima degli ospiti, che salutiamo e che sono già qua, senti Angelo da Imola che ci chiama. Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci. Io volevo solamente un attimino dissentire da quello che diceva Giannino, guarda la sua ossessione con Parolin. Ossessionato da Parolin e dallo Stato estero, come dice lui, del Vaticano, correttamente. Volevo solamente dire che in realtà, siccome la paura del PD, del governo, non è nella precisa persona del cardinal Parolin, ma è nei confronti di quel qualche milioncino di cattolici che ancora ci sono in Italia, che seguono invece quello che dice la Chiesa. E questa si chiama democrazia, che venga da uno Stato estero o che venga dall'Italia, perché io in quanto cattolico ho si riconosce. Ma io sono d'accordo con questo. Lei ogni volta voi confondete le carte, perché sapete perfettamente, voi cattolici, sapete perfettamente che questo non c'entra nulla con il fatto che, secondo l'articolo 1 e 2 del concordato, il cardinale segretario di Stato non può e non deve permettersi di entrare nella tecnica degli strumenti di voto delle Camere della Repubblica. Capite? Questa roba, secondo gli articoli 1 e 2, lui però non può fare. Può dire vorrei questa legge, mi piacerebbe. Dovete usare questi strumenti. Ieri si è fatto trovare con la norma in mano dicendo questo sì, questo no. Allora, non c'entra niente con la libertà di voto, di espressione, e ci mancherebbe, dei cattolici e col fatto che tanti cattolici votino il PD. C'entra il fatto che i vertici delle gerarchie, come noi non diciamo come il Papa emana i motu proprio, fa i sinodi o i conclavi, dovrebbero sapere, e invece lo sanno e ogni volta travalicano tutto qua. Travalicano, tu dici. Però può dire Parolin o no, vorrei, sono contento che non ci sia la step child adoption. Ma, ripeto, come potrebbe dirlo di una legge spagnola? Sono contento che in Spagna come non ci sia questo. Questa roba Bagnasco non deve entrare nel testo in Parlamento. Queste cose non le possono dire. Va bene, non le possono dire. Allora, ancora, salutiamo. Il bello è che invece infastidisce chi come me ricorda che non le possono dire. Vabbè, il bello del dibattito. Salutiamo Fabrizio Rondolino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Così come salutiamo il direttore del giornale Alessandro Sallusti, eccoci direttore. Buongiorno. Allora, non so, la vogliamo smarcare la svolta vegetariana di Berlusconi, Sallusti, così visto che lo frequenti. No, lei però lo frequenta, ce lo dica, ma lei ne aveva segni evidenti. Sì, certo che ne avevo segni evidenti. Ha detto no, poi sì. Che è il ventesimo segno evidente di svolta alimentare del presidente Berlusconi. Ah, ecco. Che tra quello che fa spontaneamente e quello che gli viene imposto da medici, credo che ogni 15 giorni cambi dieta. Ah, ecco. C'è stato il periodo, è come i pittori, è stato il periodo dei brodini, poi c'è il periodo dell'insalata, poi c'è il periodo. Ma lui asseconda tutti e poi torna come sempre, come in ogni campo, a fare quello che vuole. Quindi è un vegetariano per motivi di salute, forse. Quello che vuole. È un vegetariano temporaneo. Mi sembra temporale. Che sia di una onestà cristallina la risposta di salute. Chiaro. No, vabbè, però qua si discuteva del fatto che avesse vinto Alfano, uno che sul giornale è sempre trattato con i guanti di velluto, vero Sallusti? Ha vinto Alfano o sta vincendo Alfano? Sì, permettimi soltanto una battuta su quello che ho appena sentito dagli Oscar. È vero che Parolin non deve interferire, ma allora è anche vero che il presidente dei magistrati, dell'associazione magistrati, non deve interferire, minacciare la libertà. Sono d'accordo, come sai. D'accordo. Così come le lobby dei bancari, le lobby. Ah, no. È una lobby. Dovremmo essere tutti più rigorosi nel difendere le regole, hai ragione. E in quanto ad Alfano, beh sì, per la prima volta credo nei 4 anni tra Letta e Renzi, 3 anni e mezzo che è al governo, per la prima volta diciamo che il governo fa qualcosa che il suo alleato fa qualcosa che dice lui, e questo è assolutamente vero. La tristezza dello spettacolo è che non siamo di fronte a scelte politiche condivise, ma che questo è un governo tecnico dove nessuno si fida di nessuno, e quindi i compromessi non sono mai da festeggiare, perché non sono frutto di accordi politici condivisi, ma di reciproci ricatti e minacce e quant'altro. Per cui sì, ha vinto Alfano, ma così. Minacciando, diciamo, senza una vera sintesi di governo. Ecco. Esattamente. Non lo so se anche Rondolino la pensa così, se ha vinto Alfano, o se invece Renzi guarda il bicchiere mezzo pieno e porta a casa mezzo risultato. Come la vede Rondolino? Ma confesso una certa delusione per come si sta concludendo la vicenda. Però, se dovessi dire, i vincitori sono le famiglie omosessuali. Perché le famiglie omosessuali alla fine di questo tormentato iter potranno sposarsi senza dirlo, senza chiamarlo così, perché siamo un paese ipocrita, c'è anche un vincolo costituzionale, ma in realtà si tratta, come ben sappiamo, di una interpretazione data dalla Corte a un articolo della Costituzione, ma comunque insomma adesso non voglio aprire questo altro sottocapitolo. Le famiglie omosessuali potranno diciamo godere di diritti e doveri paragonabili a quelle delle famiglie eterosessuali. Restano esclusi i famosi bambini nei nomi dei quali si è fatto la Family Day, non hanno diritti, sono pare soltanto un centinaio o qualche centinaio, ma tendenzialmente saranno sempre di più, perché le famiglie omosessuali ovviamente, giustamente, naturalmente faranno figli, continueranno a fare figli. Sì. Quindi da questo punto di vista il limite è evidente, però è anche vero che viviamo in un paese in cui non c'è soltanto Parolini e Alfano, ma c'è anche Casaleggio colpa loro, cioè, insomma anche loro ci hanno messo del loro, però il Movimento 5 Stelle che dice discutiamola questa legge, venite qui, cioè... sì, però qui adesso io non voglio citare Renzi, perché però lo devo citare, cioè da quando lui ha fatto vedere la vignetta di Charlie Brown, Gusti che toglie il pallone a Charlie Brown ogni volta, io ho una certa età, quindi Peanuts me ne ricordo, ha esattamente colto il problema, cioè i grillini e dal famoso streaming con Bersani che dicono vieni avanti cretino e poi dopo e poi dopo si sfidano, cosa che sì, dal loro punto di vista va anche benissimo, nel senso che sono una forza antisistema, quindi il loro obiettivo è rendere ridicoli tutti gli altri e rendere impraticabile il sistema democratico. Loro vogliono dimostrare che il Parlamento non può fare nulla. Però quindi legittima la loro battaglia, ma è anche ragionevole che uno dopo essersi scottato una volta non si scotti più la seconda. Quindi per Rondolino è giusto mettere anche questo maxi emendamento, la fiducia, e portare a casa quello che si riesce a portare a casa a questo punto. Io però Fabrizio, una domanda esplicita, siccome sei fan, sostenitore pubblico di Renzi. Allora, primo, se uno si ricorda dal primo giorno, Renzi non lo fa, se non quando gli serve, che non ha vinto le elezioni e non ha la maggioranza in Senato, su un tema come questo, siccome lui è il segretario del partito, deve far costruire una strategia coerente al fatto che non c'è la maggioranza. L'ha fatto? Direi di no. B, se nel tuo partito cova, perché non era esplicito così, da un certo punto di vista è esplicitissimo il dissenso di un'ala cattolica molto forte, che a un certo punto ha dibattito inoltrato, oramai quasi arrivati alla fase finale, deposita una raffica di durissimi emendamenti, perché succede prima questo e poi 5 Stelle si sfila, vuol dire che hai anche sottovalutato un problema non solo nella dialettica d'aula in cui sei minoranza, ma anche nel tuo partito, a casa tua. E io ho avvertito una certa sorpresa quando i cattolici del PD hanno indurito la posizione, no? Emma Fattorini, che è una nostra amica da quando siamo giovani, Emma ha cambiato tono rispetto alle sue obiezioni. Emma è una persona squisita da questo punto di vista, però era evidente che c'era stato un input. Io dico anche Vaticano, perché sono esplicito in questo paese, non sono ipocrita, che gli ha detto induritevi ragazzi. Lo hanno fatto, i 5 Stelle hanno giocato, però ho doppio errore sia del Premier sulla prima partita che del segretario del PD. Sbaglio in questa analisi? Ma come Premier forse no, perché Renzi fin dall'inizio immaginava uno scenario paragonabile a quello delle leggi sul divorzio e sull'aborto, no? Che furono, noi eravamo piccolini, però furono approvate da una maggioranza trasversale con dentro i comunisti, con l'opposizione alla Democrazia Cristiana, che addirittura era a ciò che Renzi era, diciamo, la padrona indiscussa politicamente del paese. E quello era un po' lo schema. Sul fatto che come segretario del PD, adesso non voglio essere bizantino, però insomma ci intendiamo, e qualche leggerezza, qualche sottovalutazione ci sia stata, invece sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, proprio nel momento in cui lui ha voluto sfilare il governo da questa vicenda, cosa secondo me tutto sommato fondata, perché appunto valgono i precedenti illustri di divorzio e aborto, e lui avrebbe dovuto invece sul partito chiudere molto di più, insomma fare più politica, ecco. Se ne è oggettivamente disinteressato, forse perché potremmo anche concludere così, lui è il Presidente del Consiglio di questo paese, lui non è il segretario del partito, non si sente tale, però vocazione, però, non ha questa cassetta, non ha questa cultura. Bisogna capire anche che succederà, certo, che succederà domani. Sallusti, domani pare che Verdini sarà nuovamente decisivo, perché Verdini, la sua truppa di 19 senatori, qualcosa di più che decisivo, perché decisivo lo è stato anche in alcune recenti votazioni. Domani succede un fatto politico molto rilevante, perché Verdini ha annunciato, non so se ufficialmente non so, sì, ma non ancora ufficialmente, a noi risulta che Verdini voterà la fiducia. Quindi quando un partito vota la fiducia entra in maggioranza. Cioè, il fatto politico di domani è che cambia la maggioranza di questo paese, e quindi secondo me Mattarella dovrebbe chiamare Renzi e dirgli: scusami Presidente, spiegami che cosa sta succedendo, perché la tua maggioranza è cambiata, e tra l'altro è cambiata in un modo simbolicamente e politicamente rilevante, perché chi appoggia un partito guidato da un signore che alla nascita del tuo governo era coordinatore del partito, il capo del partito dell'opposizione, era il coordinatore di Forza Italia. Quindi è successo e sta succedendo un fatto rilevante. Sì. Dopodiché tutta questa discussione che ho appena sentito, secondo me rivela soltanto la faccia, come dire, dittatoriale di Renzi, che pretende che la sua opposizione interna e l'opposizione parlamentare appoggino le sue decisioni. Le opposizioni per definizione sono opposizioni. Il compito di garantire i voti per approvare le leggi è della maggioranza, cioè di Renzi in quanto segretario del PD e dei suoi alleati. Io mi stupisco che si dia la colpa ai grillini o alle minoranze del PD che non si riesce a approvare una legge. Non, la colpa è della maggioranza. Sì. Da che mondo è mondo ci può incolpare l'opposizione che la maggioranza non riesce a approvare una legge? No, ma infatti la questione su questo, Rondolino, secondo me Sallusti ha ragione. Anch'io un po' stupito e guardo in maniera ingenua a dire: ma scusate, ma c'è in Parlamento, c'è una maggioranza, sebbene sappiamo che Alfano non sia d'accordo con questa legge, è lì che la maggioranza, uno deve andare a pescare i voti, cioè andare a dire: voi del Movimento 5 Stelle non ci avete appoggiato la legge quando ce l'avevate detto. Ma il Movimento 5 Stelle sta all'opposizione, mi risulta, sbaglio, Rondolino? Ma sta l'opposizione dei provvedimenti del governo, non sta l'opposizione dei diritti civili, perché le leggi si votano anche sulla base del secondo merito. Questo ragionamento, allora non c'è più la maggioranza perché Alfano è contro e quindi bisognerebbe cambiare il governo. Ma no, perché sono due cose diverse. Noi siamo un regime parlamentare, ci sono le leggi di espressione del Parlamento e poi ci sono le leggi di iniziativa del governo. E sono due cose differenti. Io facevo prima l'esempio del divorzio, no? Il divorzio fu approvato quando il primo ministro era un democristiano e la Democrazia Cristiana aveva circa il 40% dei voti. La Democrazia Cristiana votò contro e a favore votò il PC, che era notoriamente all'opposizione. Allora, il PC avrebbe voluto allora, il Partito Comunista avrebbe voluto allora fare questo giochetto, dire: cari amici socialisti, è un problema vostro, il divorzio fatevelo con la vostra maggioranza. Per carità, legittimo, il risultato è che non avremmo avuto il divorzio. Viceversa è prevalso un altro ragionamento, cioè siccome parliamo dei diritti delle persone, cioè parliamo dei diritti di alcune centinaia di migliaia di famiglie omosessuali che ne sono prive, allora non ci importa se è maggioranza. Tant'è che all'inizio persino Forza Italia voleva votare a favore, poi dopo ha cambiato idea. Beh, insomma, sì, ma a proposito di famiglie, Fabrizio, come cambia dieta cambia anche opinione con una sorprendente rapidità. Tu hai raccontato ieri in TV di avere una figlia lesbica, lo hai raccontato. Sì. Come vive questo momento? Cioè, è contenta, non è contenta? Questo bisognerebbe chiederlo a lei. Questo è vero, però non è voglio, qua. No, non voglio fare. No, lei appartiene a quella generazione di, come posso dire, di delusi a priori dalla politica, e alle ultime elezioni che sarebbero state per lei anche le prime non ha votato, e devo dire che questa vicenda non è che rafforza la sua non è che l'accalora mi limito a dire questo, ecco. diplomaticamente questo la capisco, però perché ripeto, Fabrizio, non ti sfuggerà che se voleva in pieno adottare la logica del divorzio il segretario del PD e non premier, non finiva a fiducia, cioè non è così, cioè non finiva a fiducia per evitare di votare gli emendamenti, quindi c'è una contraddizione plateale. Io ho colto che tu dici: non è più fare il segretario del partito la cosa che gli piace, e allora però questa roba diventa un problema, perché come si vede in questa vicenda si è capito che è un problema, si è capito, perché secondo me il PD porta a casa tutt'altro che un risultato positivo nel rapporto con il progetto di Renzi nella società italiana, cioè i voti e il consenso. Mi sbaglierò, ma io ho questa impressione. Noi ci dobbiamo fermare qui, mi spiace, ma recupereremo Marina da Lucca, Filippo da Siena domani su questo tema, se voglio. Non ho capito però in conclusione se Sallusti ha una cena vegetariana da Berlusconi andrebbe o no, questo non l'ho capito. No, perché noi leggiamo che Sallusti a casa deve fare l'assaggiatore di quello che gli cucina Daniela, ma è vera questa cosa? No, beh, a parte che assaggio volentieri, perché se Daniela ha una dote è quella di cucinare. Lo so, perché adesso ho messo nei guai, perché non puoi che dire che lei cucina deliziosi manicaretti. Vabbè, sei diplomatico, ho capito. Vabbè, comunque cena berlusconiana, cena vegetariana ad Arcore, in attesa che non cambi la prossima settimana. Esatto, magari paleolitica e quindi carne bisteccazze, va bene. Grazie. Carne di Verdini, carne di Verdini, filetto di Verdini. Lì c'è da tagliare, tra l'altro. Esatto. E del resto, invece adesso si mangia Alfano perché è un vegetale, noto che Alfano non è un vegetale. Non ho detto quale, però. No, va bene. Grazie Alessandro Sallusti, direttore del giornale, Fabrizio Rondolino. C'è un basta? Sì, intanto salutiamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. C'è il cardinale Parolin che ce ne manda uno. In redazione e Peter Bescapè in regia. Vi lasciamo col basta contest. Ciao Giannino, me ma piacerebbe stare a tutti che il fiacca, quando tu le basta. basta, violeresa a me. Anche per noi ricchi è ora di dire basta. Basta, ostreghetta, basta! E basta, dai! Non te ne mengo!